24 mattino di Alessandro Milan. Le 7 e 20 minuti, tra qualche secondo, eccoci qua, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. I vostri messaggi al 349-238-6666, ci potete anche scrivere 24 mattino e radio24.it, e siamo anche su Facebook con questa pagina 24 mattino, ci trovate facilmente, siete sempre di più e questo ci fa piacere. Di cosa parliamo nel nostro sondaggio? Sarà un weekend di quella che il Messaggero definisce la piazzite, tutti in piazza. Le donne domenica in piazza, Giuliano Ferrara ha organizzato una manifestazione domani a Milano contro il neopuritanesimo. Noi vi chiediamo, dove andreste dovendo scegliere, con le donne in piazza oppure vi piace più la manifestazione di Giuliano Ferrara contro questo bigottismo, e uso la parola di Giuliano Ferrara. Di questo parliamo. Oggi pare ci sarà anche una manifestazione, anzi c'è una manifestazione davanti al Tribunale di Milano dei sostenitori di Berlusconi, al grido di resistere, resistere, resistere, insomma tutti in piazza. La lettura dei giornali. In primo piano. Venerdì 11 febbraio le scelte dei quotidiani sono due. L'Egitto, Mubarak sfida la piazza, questo è il titolo dell'apertura del Sole 24 Ore. Mubarak si aggrappa al potere, questo per il Corriere della Sera. Oppure la politica interna fa discutere soprattutto l'intervista che Silvio Berlusconi ha rilasciato al Foglio, la vedremo ovviamente. Repubblica, un golpe, io spiato come nella DDR. La Stampa, Berlusconi attacca contro di me un golpe morale, sono parole tratte dall'intervista al Foglio. E per il giornale, in piazza contro il golpe, mentre l'Unità propone un'intervista a Nanni Moretti, non è più un film, che viene, c'è la foto del Caimano, viene intervistato anche da Il Manifesto oggi Nanni Moretti. Berlusconi, golpe morale anche per il Messaggero. Vedremo altri titoli, intanto le segnalazioni da cui voglio partire sono due. La prima è questa, viene dal Messaggero, lo trovate a pagina 15. Assenteismo alla Camera, condanne per 11 funzionari. Una denuncia partita dal presidente Fini, tra gli imputati c'è anche una sua segretaria, dipendenti di Montecitorio che timbravano il cartellino e poi in pratica andavano per i fatti propri, a fare la spesa, a fare dei giri per Roma. Ogni giorno una fuga dagli uffici della biblioteca della Camera dei Deputati per passeggiare per le vie del centro di Roma. Un rituale che si è ripetuto per 340 volte nel corso di tutto il 2009. Ieri è arrivata la condanna. Un funzionario della Camera è stato condannato a 1 anno e 5 mesi per truffa aggravata ai danni allo Stato, mentre altri sono stati condannati, sempre con la formula del patteggiamento, 10 funzionari, pene inferiori da 1 anno a 6 mesi, perché si erano assentati con minore frequenza. Dunque, così è deciso il primo processo, partito dalla denuncia, tra l'altro, del presidente della Camera Fini. C'è anche tra gli impiegati una componente della segreteria del presidente della Camera. C'è un'altra persona, identificate tutte con le iniziali, non nome e cognome, che ha patteggiato la pena di 6 mesi di carcere. Alcuni usavano per esempio i badge di persone in pensione oppure i badge di visitatori, timbravano e poi uscivano. Assenteismo alla Camera, condanne per 11 funzionari. La trovate sul Messaggero. La seconda segnalazione invece viene dal Fatto Quotidiano, è un articolo di Beatrice Borromeo. La COP è maschio. Il Tribunale di Milano condanna i supermercati della Lombardia per discriminazione sessuale. Scrive Beatrice Borromeo, proprio come nel film We Want Sex, un gruppo di donne si batte per ottenere gli stessi diritti dei colleghi maschi e vince. Solo che non siamo nel 68, ma nel 2011, non siamo nella fabbrica simbolo dell'industrialismo la Ford, ma 9 dipendenti del punto vendita di Novate milanese della Coop, il colosso della distribuzione che, quando dice la Coop sei tu, si riferisce ai suoi soci, cioè ai clienti, e non sempre ai lavoratori. I fatti sono questi. Nel 2009 queste dipendenti tra i 28 e i 45 anni hanno fatto causa alla cooperativa che offriva la possibilità di lavorare a tempo pieno soltanto agli uomini, e le dipendenti, secondo il giudice Riccardo Attanasio della sezione di primo grado del tribunale, hanno subito discriminazioni dirette di carattere sessuale. Pur lavorando per la Coop da circa 20 anni, non veniva concesso loro il contratto full time per il solo fatto di essere donne. E tutto questo, insomma, comporta la condanna per la Coop, per il mancato guadagno dovuto alla differenza di salario, il risarcimento morale di 5.000 euro a testa. Sta di fatto, scrive Beatrice Borromeo, che basta vedere i dati: su 51 dipendenti del punto vendita, 14 sono uomini e 37 donne. Dei 14 uomini, tutti tranne uno sono assunti a tempo pieno, mentre delle 37 donne ben 34 hanno il semplice part-time. E dunque sono ricorsi al giudice, e il giudice ha detto effettivamente c'è una discriminazione di carattere sessuale. Non so se è una sentenza definitiva oppure no. La Coop è maschio, questo sul Fatto Quotidiano a pagina 6. Da dove ripartiamo? Dall'intervista di Silvio Berlusconi al Fatto, al Foglio. Perché attacco i PM con parole molto dure, l'accusa di voler fare contro lui un golpe giudiziario, un golpe morale come ai tempi della Germania comunista. In primo piano. Perché attacco i PM? Questo è il titolo dell'intervista che il Foglio fa a Silvio Berlusconi, a dimostrazione, insomma, che Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, è diventato sempre più e diventa sempre più vicino al presidente del Consiglio. Lo troviamo in prima pagina, due colonne. Parla di inchieste farsesche, Berlusconi, degne della caccia spionistica alle vite degli altri che si faceva nella Germania comunista. Per il reato di cena privata a casa del Premier hanno stilato un mandato a comparire, solitamente di due paginette burocratiche, allegando 400 pagine di origliamenti e documenti presunti d'accusa con uno scopo preciso. Quale scopo? Chiede Ferrara. Lo hanno scritto il professor Zagrebelsky, la signora Spinelli, il professor Asorrosa. Bisogna liberarsi di Berlusconi evitando il voto degli italiani. Tutti rincretiniti secondo queste elite boriose e antidemocratiche. E ci vuole dunque un'iniziativa, cito letteralmente, extraparlamentare che punti sull'emergenza morale per distruggere la sovranità politica che il popolo italiano non è degno di esercitare. Così distrussero la Prima Repubblica. E poi ancora Berlusconi ribadisce l'obiettivo conclamato, proclamato, declamato ad alta voce: far saltare governo e maggioranza attraverso l'assedio giudiziario, paralizzando l'esecutivo, mettendo l'Italia sotto la luce più fosca al cospetto del mondo. Ma non ce la faranno, perché intanto c'è un giudice a Berlino e ho fiducia di trovarlo, e poi perché in una democrazia il giudice di ultima istanza è il popolo elettore e con esso il Parlamento. Al che chiede il Foglio: ma vuol dire che lei personalmente è in un certo senso al di sopra della legge? Certo che no, risponde Berlusconi. I padri costituenti avevano stabilito saggiamente che prima di procedere contro un parlamentare si dovesse essere certi, attraverso un voto della Camera, che si era liberi dal sospetto di accanimento, persecuzione politica. Io ho già affrontato vittoriosamente decine di processi, affronterei serenamente qualsiasi altro processo. Da cittadino privato me la caverei senza problemi con accuse così ridicole, sostanziate solo da pregiudizio e tecniche inquisitorie indegne di un paese civile. Ma io resisto, perché come sempre nella mia storia l'attacco al mio privato è in realtà un attacco al ruolo pubblico che svolgo e alla mia testimonianza democratica. Insomma, questo ampi stralci dell'intervista, la lunga intervista sulla quale poi si esercita tutta la politica, cioè anche tutti i giornali, gli altri giornali riprendono questa intervista sul Foglio. Le frasi che più fanno discutere sono il riferimento alla Germania comunista, questo sarebbe alla stregua di questo l'inchiesta della Procura di Milano, il tentativo di golpe giudiziario, e poi questo riferimento, infatti molti giornali si esercitano subito, al ritorno dell'immunità parlamentare. No, quando Berlusconi cita dei padri costituenti che avevano stabilito saggiamente il principio dell'immunità parlamentare. Infatti, ecco qui Libero, il PDL scende in piazza e ripensa all'immunità. Oggi c'è un presidio davanti al Tribunale di Milano e il nuovo obiettivo è ripristinare l'articolo 68 della Costituzione. Anche per il Corriere della Sera rispunta l'immunità, l'ipotesi di riformare l'articolo 68 della Carta. C'è anche un'intervista al capogruppo Fabrizio Cicchitto del PDL alla Camera che dice: sembra il 93, ma Berlusconi non finirà come crack. Per la verità c'è un attacco molto duro nell'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera da parte di Sergio Romano, l'ex ambasciatore, giornalista, che in passato, insomma, non è che si può identificare come un giornalista sempre critico, duramente critico nei confronti di Berlusconi e del governo. Un momento di riflessione, questo è il titolo di editoriale di Romano. Voglio provare a mettermi per qualche minuto nei panni di Silvio Berlusconi. Si ritiene vittima di una congiura giudiziaria. È convinto che le accuse contro la sua persona siano altrettanto tappe di un percorso diretto a eliminare il presidente del Consiglio e il suo partito. Però Romano dice e scrive: mi chiedo se si renda conto Berlusconi degli effetti che questa linea aggressiva e difensiva sta avendo per il paese. In primo luogo pregiudica la credibilità delle sue riforme. In secondo luogo Berlusconi sembra ricercare deliberatamente lo scontro alternato a qualche occasionale schiarita con tutte le maggiori istituzioni del paese, dalla Presidenza della Repubblica alla Corte Costituzionale. Ha capito che siamo sull'orlo di un conflitto civile tra istituzioni, corpi, ordine dello Stato? Si è chiesto quali possono essere gli effetti di questa strategia? L'Italia non può permettere che questo stato di cose continui ulteriormente. Siamo il giullare d'Europa, il miglior fornitore di indagini frivole, vignette satiriche, storie salaci e licenziose a tutta la stampa occidentale. Se questo paese gli sta a cuore, Berlusconi dovrebbe almeno distinguere il suo ruolo pubblico dalla sua condizione di potenziale imputato. Si difenda nei luoghi in cui ha il diritto di farlo, anche con argomenti sull'uso sproporzionato delle intercettazioni, sulla difesa della privacy, ma non nei dibattiti politici, nelle conferenze stampa e soprattutto durante i viaggi all'estero. Ha fondato un partito che si chiamava Forza Italia. Cerchi di evitare che passi alla storia come il partito che ha reso il paese rissoso all'interno e risibile agli occhi del mondo, proprio nel momento in cui abbiamo maggiore bisogno di credito internazionale e di fiducia in noi stessi. Ecco, questo il duro attacco all'editoriale di Sergio Romano oggi sul Corriere della Sera. Io l'ho detto da giorni che il clima sia di tensione e ormai di contrapposizione che dura da 15 anni, ma di idea di uno scontro finale, almeno di contrapposizione politica tra berlusconiani, anti-berlusconiani, lo si capisce d'altronde anche dai retroscena politici. Il consiglio di guerra del Cavaliere, secondo Francesco Bei di Repubblica, ieri ha visto Giuliano Ferrara e poi i direttori Sallusti del Giornale, Giovanni Toti di Studio Aperto, insomma i direttori delle testate più vicine a lui, Alfonso Signorini di Chi. Ora non si gioca più in difesa, questa è la linea molto aggressiva e anche l'intervista al Foglio ne è già una prima dimostrazione. Intanto forse oggi ci sarà quell'incontro, quel colloquio al Quirinale col capo dello Stato. Anche qui era stato fonte di tensione perché Berlusconi l'aveva annunciato dicendo devo andare d'urgenza a portare a parlare il caso intercettazioni con Napolitano. C'è stata la risposta fredda del Quirinale a dire non c'è nessun incontro. Ieri Gianni Letta, come al solito, è riuscito a cucire i rapporti, secondo il Corriere della Sera, secondo la stampa. Palazzo Chigi chiamò il Colle, presto ci sarà un faccia a faccia, forse già oggi, anche se secondo la stampa con Federico Geremicca l'aggettivo utilizzato da Napolitano con i suoi stretti collaboratori nei giorni scorsi per dimostrare questo segnale di inquietudine è clima ingestibile. Ingestibile, questo l'aggettivo che avrebbe utilizzato Napolitano nei giorni scorsi. Intanto che l'inchiesta va, ci sono due aspetti, l'inchiesta che va avanti, ma oggi viene messa un po' in secondo piano. C'è una notizia però interessante che vedo dal Sole 24 Ore, Stefano Elli ne parla pagina 19, vale a dire una vicenda che coinvolge l'Elemora verso il triplice fallimento. Il prossimo 2 marzo Dario Mora, detto Lele, sarà convocato nell'ufficio del presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, Filippo Laman, dove si terrà l'udienza per 3 istanze di fallimento, 3 domande che portano la firma di Salvatore Sanzo, il curatore della LM Management, la società di Mora dichiarata fallita nel 2010, e si prevedono tempi grami per il manager rodigino. Da una parte c'è l'incudine del Rubygate e poi c'è il martello del giudice fallimentare. Tra l'altro Lele Mora rischia, perché questo è stato richiesto, il fallimento personale, una circostanza che avrebbe una conseguenza precisa: tutto il suo patrimonio personale in Italia e all'estero verrebbe acquisito dalla curatela. La pena prevista tra l'altro per la bancarotta fraudolenta va dai 3 ai 10 anni di reclusione. Mora dunque, scrive il Sole 24 Ore, rischia grosso. E tra l'altro c'è un giallo, il giallo è legato a delle effrazioni che si sono verificate ieri al Tribunale di Milano. secondo il Fatto Quotidiano ne parla con Gianni Barbacetto a pagina 2. Queste frazioni sono avvenute nell'ufficio del giudice per le indagini preliminari Federica Centonze, che tra l'altro indaga proprio nel procedimento per i fallimenti di Lele Mora e di Fabrizio Corona. Chi ha paura delle carte? Titola il Fatto Quotidiano. Due effrazioni sospette nel tribunale del caso Ruby. E ora una mail riservata alle toghe da parte del responsabile dei magistrati: fate attenzione. Una mail riservata all'interno dell'ufficio della procura a dire, insomma, fate attenzione a possibili effrazioni, a possibili episodi di questo tipo. Ci manca solo il giallo per condire tutta questa bella salsa dei complottoni, delle manine che vogliono entrare da qualche parte a prendere ciò che non devono prendere. Intanto, come detto, Mario Aiello scrive un bellissimo articolo oggi sul Messaggero: impazza la piazzite da weekend, la piazzite, tutti in piazza, il tema del nostro sondaggio, eh? Le donne hanno annunciato questa manifestazione domenica, le donne in piazza. Giuliano Ferrara domani le anticiperà per contrastare questa voglia di bigottismo, di guardare dal buco della serratura, come la definisce il direttore del Foglio. Noi vi chiediamo il nostro sondaggio: voi da che parte andreste? Dovendo scegliere, magari ve ne state comodamente a casa, non ve ne può fregare di meno, ditecelo anche. Però invece vi sentite più vicini alla manifestazione di Ferrara, oppure vi sentite più vicini alla manifestazione di domenica delle donne? Mario Aiello sul Messaggero lo scrive: fra oggi, domani, domenica non ci sarà slargo, incrocio, zona pedonale, area traffico limitato a circolazione libera e gioconda, marciapiede o carreggiata, strada a senso unico, via doppia corsia, che non vedrà in scena il popolo indignato. Di uomini, donne, italiani di destra, sinistra, quelli del centro no, ma sono pantofolari. Di mariti separati che incontrano di nuovo le loro ex, per qualche ora ritrovano l'armonia in nome della lotta contro il governo del bunga bunga. Di anti-berlusconiani e berluscones, di amici del PM e di avversari delle toghe rosse, di puritani e libertini trendy alla Giuliano Ferrara, di militanti del PD che chiedono firme per cacciare il Caimano e di super tifosi del Cavaliere che già oggi si ritroveranno sotto il tribunale di Milano. Insomma, in questo incrocio di piazza cercate di non incocciarvi l'uno contro l'altro e manifestate tutti serenamente, pacificamente, aggiungo io. Rispunta anche Nanni Moretti, che fa ben due interviste che sono fotocopia, tanto da farmi sospettare che l'abbiano incontrato insieme Natalia Lombardo per l'Unità e il direttore del Manifesto Norma Rangeri, perché Moretti usa le stesse parole: il Caimano c'era già allora, ma poi ci siamo abituati. Nanni Moretti, questo a Norma Rangeri del Manifesto: non ho mai voluto parlare finora perché mi imbarazzava a dire avete visto, io l'avevo già detto, quello che stava succedendo nel mio film Il Caimano. Con la scena finale, quelle fiamme sono macerie simboliche, costituzionali, istituzionali, culturali, macerie che si lascia alle spalle l'avventura politica di Berlusconi. Il fatto è che ci siamo abituati un po' tutti, anche elettori ed elettrici di sinistra, a cose che in una democrazia non sono per niente normali. Tra l'altro fa un paio di interviste Nanni Moretti anche perché è in uscita, ed è la copertina dell'Espresso, il suo nuovo film, quindi insomma è il momento anche di fare qualche dichiarazione, di tornare un po' visibile, del nuovo film dedicato al Papa, nel quale interpreta un Papa, anche se a Norma Rangeri del Manifesto dice non ho scelto il Papa, ma non il Papa, ma un Papa depresso. E infatti la copertina dell'Espresso è Abemus Nanni. Mentre la copertina di Panorama, che così lancio ancora il nostro sondaggio, è le donne che non vanno in piazza. Io non ci sto. C'è una serie di donne, lavorano, hanno figli, non fanno politica, orgogliose della propria dignità, ma non accettano lezioni puritane. Ecco qui, in piazza con le donne domenica o con Giuliano Ferrara domani. Votate sul sito radio24.it il traffico. In primo piano. Tra l'altro, che lo scontro politico si manifesti anche in altri modi, basta vedere, tutti i quotidiani dedicano almeno una pagina a quello che sta succedendo in Rai, dove il senatore Alessio Butti, che fa parte della Commissione Vigilanza Rai, ha presentato un atto di indirizzo che verrà discusso la prossima settimana e che prevede alcune cose. Per esempio, un talk show non può trattare il tema di un altro prima di 8 giorni. Non avete capito, cioè nel senso, se lunedì Porta a Porta parla di Ruby, martedì Ballarò o giovedì Anno Zero non possono parlare dello stesso tema, cioè bisogna parlare di altro. un talk show ogni 8 giorni può parlare di un argomento. Oppure no ad attori che interpretano conversazioni intercettate. O ancora si pensi a format con due opinionisti di opinioni diverse. Il Corriere della Sera, per esempio, la mette lì, la mette così: c'è ad anno zero Travaglio, ci vuole anche un anti-Travaglio, uno che esprime nella stessa opinione l'opinione, nella stessa trasmissione, un'opinione diversa. Ed ecco qui come viene dipinta dai giornali: il nuovo bavaglio del PDL sui talk show della RAI, così Repubblica. Il PDL e le regole RAI, stretta sugli opinionisti, questo per il Corriere. Mentre La Stampa fa anche un commento con Michele Brambilla: pronta una ricetta da Soviet per la RAI. La RAI punta a blindare l'informazione. Questo è un altro motivo di scontro e tensione. Allarghiamoci a cose che trovano molto spazio sulle prime pagine dei giornali, in particolare quello che sta succedendo in Egitto, dove sono ore drammatiche. C'è da dire che io vi posso invitare a leggere tanti reportage molto interessanti sull'Egitto che trovate oggi sui giornali, anche se il consiglio è, se avete la possibilità di consultare internet oggi o vedere anche televisioni, ascoltare ovviamente Radio 24, insomma seguite la giornata di oggi, perché si preannuncia molto molto di tensione. Ieri sembrava l'ultimo giorno di Mubarak, poi Mubarak ha sparigliato a sera dicendo no, non mi dimetto, e tra l'altro Alberto Negri, il nostro corrispondente, fa un bel reportage sul Sole 24 Ore: siamo tutti pronti a morire per la libertà. Piazza Tahrir accolto con un ruggito feroce di rabbia e delusione il discorso di Mubarak. Resto fino a settembre. Una chiara strategia per risolvere la crisi. Non accetto diktat stranieri. Aggiunto per sottolineare che nessuno, neppure l'America, può imporgli di passare la mano al suo vice, Omar Suleiman, al quale trasferisce i poteri e diventa di fatto presidente dell'Egitto. Mubarak a parole concede tutto, ma non le dimissioni. E sono sembrate perfino irridenti alla folla di Piazza della Libertà le parole con cui ha detto, rivolte ai giovani, che il sangue dei martiri non è stato versato invano. Insomma, Mubarak resterò fino al voto, ha sparigliato tutti. Obama effettivamente è stato preso in contropiede, aveva parlato già di storia che stava facendo il suo corso. Ieri, quando si era sparsa la voce di tutto il potere era passato all'esercito, e ora però, ripeto, già le TV che trasmettono informazioni 24 ore su 24, anche la CNN poco fa diceva che è una giornata, oggi è anche il venerdì, è una giornata importante. Tra l'altro sono attese comunicazioni importanti da parte dei responsabili dell'esercito a breve, quindi insomma si teme purtroppo che possa essere una giornata ancora decisiva e ancora carica di tensione in Egitto. Vi segnalo anche su questo il reportage di un altro grande inviato italiano, Bernardo Valli, su Repubblica: la beffa finale del faraone di plastica è stata una tragicommedia, scrive Valli dal Cairo. Il giorno della truffa, la vigilia di una guerra civile, i giovani di Piazza Tahrir, espressione della generazione del web, pensavano di avere infine scalzato dal potere, dopo 17 giorni, il vecchio generale al potere da 30 anni. L'eco della loro gioia rimbalzava sulle onde del Nilo. Invase da una folla in delirio, raggiungeva nelle stesse ore il mondo arabo, elettrizzato dalla notizia rivelatasi falsa delle sue dimissioni. Nella più grande e prestigiosa nazione araba, con 80, forse 100 milioni di abitanti, una rivolta democratica era riuscita a cacciare il Rais, che sembrava intramontabile. E invece Hosni Mubarak si è presentato in TV nella tarda serata, quando tutti si aspettavano le dimissioni, e ha detto con un lungo discorso che lui resta alla presidenza. Insomma, così inizia il reportage di Bernardo Valli. Io voglio andare a due segnalazioni, non le ho mai citate in questi giorni, anche se c'erano paginate e paginate di cronaca, perché ogni volta che guardavo questi due volti, che guardo ancora oggi questi due volti di queste due bambine, Alessia e Livia, ritratte, avete presenti queste gemelline scomparse nel nulla con il padre dalla Svizzera, partito dalla Svizzera da Losanna, poi si è tolto la vita a Cerignola, è partito con le figlie sono scomparse, non si sa nulla di loro, le sta cercando mezza Europa, la polizia di tutta Europa. Insomma, mi hanno sempre inquietato e mi inquietano ancora vedere queste foto di queste due bambine, Alessia e Livia, finite nel nulla anche oggi sul Corriere, anche perché oggi c'è questa svolta che prelude al peggio. Il padre, prima di suicidarsi, ha mandato una serie di lettere alla madre, che stanno arrivando ovviamente con la posta, e l'ultima è questa: le gemelle riposano in pace. Ovviamente una frase che fa preludere al peggio, come già gli inquirenti svizzeri stanno pensando. Addirittura si sospetta che le abbia avvelenate. Questo perché? Perché dal computer di questo signore Mattias, la consultazione di alcuni siti internet parlano di materiali per l'avvelenamento, del suicidio con veleni. E quindi è chiaro che i procuratori pensano che queste gemelline, che sono state avvistate l'ultima volta su un traghetto, il traghetto per la Corsica, ora abbiano fatto davvero una brutta fine. La lettera del padre: le gemelle riposano in pace, la troviamo sul Corriere della Sera, la cito da qui, ma c'è davvero ovunque questa vicenda tristissima che si pensa possa finire davvero male per queste due bambine. E infine voglio citare la tassa di un euro sul cinema. Arriva, era annunciata dal governo, c'era stata la protesta da parte di tutti i gestori delle sale, di tutti i rappresentanti per esempio dell'AGIS, e invece la tassa di un euro sul cinema da luglio arriva. Aumentano i biglietti, escluse le sale parrocchiali. Questo sul Corriere, ma anche sulla Stampa: tassa sui film, un euro a biglietto in più. Servirà a finanziare le agevolazioni fiscali per l'industria cinematografica. Industria cinematografica che però si ribella. Ora il GR, ripartiremo dall'intervista all'onorevole Luigi De Magistris dell'Italia dei Valori e poi le donne in piazza, Giuliano Ferrara a teatro, comunque in piazza. Voi conquistate, tra poco. 24 mattino. Alle 8:34 minuti, eccoci qua per il nostro sondaggio. Parliamo di questo weekend di piazze o comunque di manifestazioni. Ironizzando un po', il Messaggero oggi titola: impazza la piazzite da weekend. È il tema del nostro bianco o nero. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Le donne vanno in piazza, non solo le donne, ma la manifestazione è partita così, se non ora, quando? Il motto di migliaia di donne, scenderanno in piazza in centinaia di città italiane, anche estere, domenica. Mentre Giuliano Ferrara ha organizzato per sabato, domani, una manifestazione a un teatro a Milano, dicendo basta questo neobigottismo, questa repubblica puritana che vuole guardare, spiare dal buco della serratura. Noi vi chiediamo, insomma, vi sentite più affini a quale delle due piazze? Questo è il tema del nostro sondaggio. Devo dire che per il momento il 65% dice ci sentiamo più vicini alla piazza, quella delle donne, identificata così, delle donne, comunque quella di domenica. E ne vogliamo parlare con due ospiti che faranno parte di queste manifestazioni, chi ha scelto la piazza delle donne e chi invece andrà alla manifestazione di Giuliano Ferrara. Lidia Ravera, scrittrice, giornalista dell'Unità, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Sarà domenica, non so dove, a Roma? A Roma ha scelto come piazza. E saluto l'onorevole Iva Zanicchero, parlamentare del Popolo della Libertà, buongiorno. Buongiorno. Che invece sarà con Giuliano Ferrara al Teatro dal Verme domani a Milano. Intanto, Lidia Ravera, se mi permette, la voglio far arrabbiare subito, così ci disponiamo bene. Scherzo, grazie, le voglio far ascoltare quello che Piero Stellino, che era nostro ospite ieri, ha detto. Sa benissimo, meglio di me, che Piero Stellino è stato anche criticato molto dalle donne per alcuni articoli sul Corriere della Sera, quello che ci ha detto della manifestazione di domenica. Piero Stellino: nei prossimi giorni ci sarà una manifestazione a difesa della donna, cioè verrà presentato un prototipo di donna come fosse un'automobile e di una donna virtuosa secondo l'idea pubblica, collettiva e probabilmente anche condivisa che ne hanno appunto questi aristocratici del pensiero. La donna in quanto astrazione collettiva non esiste, esistono le donne, ciascuna delle quali si comporta come meglio crede. Alla manifestazione della donna che verrà usata contro il governo, ci saranno molte donne, alcune delle quali hanno sposato degli uomini ricchi, magari anche più vecchi di loro. Sono tutte puttane? Sono soltanto donne virtuose quelle che hanno sposato l'operaio di Sesto San Giovanni? Ma non facciamo ridere. Eccoci qua, Lidia Ravera. Che dice? No, no, non mi arrabbio assolutamente, no, perché dice una cosa assolutamente vera, che le donne sono persone, sono tutte diverse le une dalle altre. E noi non andremo in piazza per proporre un modello di donna virtuosa e punire le ragazze dell'Olgettina, le quali se sono non costrette, ma se esercitano una libera scelta, esercitano una scelta legittima sulla quale noi non abbiamo proprio niente da dire. Noi siamo in piazza a parlare della miseria dell'immaginario maschile, forse è questo che è sfuggito a Piero Stellino. Noi scendiamo in piazza a raccontare questo, l'immagine di questo paese, che è un'immagine riduttiva di una cultura vecchia, sessista, decrepita. Noi siamo in piazza per parlare della meritocrazia, che è alla base della democrazia. Vogliamo parlare di quanto le donne non sono rappresentate ai piani alti da nessuna parte, e quando vengono cooptate, se vengono cooptate, come ci raccontano le scandali di questi ultimi anni, non solo giorni o settimane, se vengono cooptate in base alla loro disponibilità, e non parlo dell'avvenenza o della gioventù, parlo della disponibilità, allora, come dire, tolgono a tutte le altre motivazioni e dignità per andare avanti. Ma allora, le donne non sono tutte uguali, le donne sono le martiri della crisi. Noi parliamo in generale anche, no, di che cosa sta costando questa crisi, che è crisi economica, che è crisi politica e che è crisi di valori. Quanto sta costando alle donne? Le donne sono ammortizzatori sociali, sono quelle che portano sulle spalle il peso dei servizi che non ci sono. Le donne fanno questo e non contano niente, e sono costrette per farsi vedere ad aderire a un modello che è un modello molto riduttivo, un modello contro il quale io non ho assolutamente nulla, dico soltanto che ce ne sono anche altri. Ci sono quindi moltissimi motivi E sono quei modelli che lei dice vogliamo, quei modelli non dell'Italia che lei ci ha rappresentato, che volete rappresentare invece nelle piazze. Però l'accusa, io vorrei questo chiedere anche all'onorevole Ivazzanicchi, che ha fatto qualche intervista in questi giorni nella quale ha detto questo, è forse c'è un po' di ipocrisia, dire, basterebbe dire è in realtà una piazza che vuole una cosa, mandare a casa Berlusconi. Volevo dire alla signora Ravera che evidentemente io sono una donna anche un po' distratta vista l'età, cioè, non ho capito, perché se veramente fosse questo quello che ha detto la signora Ravera, anch'io domenica andrei in piazza, giuro, andrei in piazza con loro, perché sono una donna libera, perché ci tengo alle donne, sono una mamma, sono una nonna. Io non ho capito, non ho assolutamente capito che fosse così, l'hanno spiegata molto male. Quello che ho capito io è che ancora una volta hanno usato le donne, le mandano in piazza per scopi politici. Allora, io ho detto in questi giorni, sarebbe molto più onesto e più chiaro, che è legittimo, è sacrosanto, dire noi andiamo in piazza per dare finalmente l'ultima grande spallata a questo governo Berlusconi, per buttare giù Berlusconi perché non lo vogliamo più. Questo è onesto, e lei sta bene, perché siamo in un paese democratico, tutti possono andare in piazza, anzi la piazza è il luogo che io amo, perché vengo dal popolo, per cui se devo manifestare vado in piazza e non vado in un teatro. Però io francamente non ho capito. Quindi la critica è questa che fate. Ho sentito, andavano verso una direzione sola, che ancora una volta le donne vengono usate a scopi, non tanto le Olgettine, le ragazze libere o non libere di fare ciò che vogliono, che moralmente è molto discutibile, specialmente da parte mia, una donna della mia generazione, ma vengono usate per altri scopi che ho detto poco fa. Io ho capito così, giuro. Ravera, è questa l'accusa che viene fatta, cioè un'operazione intellettualmente anche fine, ma in realtà che maschera un motivo molto molto pratico, anche legittimo, si può manifestare per chiedere il Presidente del Consiglio se ne vada, se uno, se siamo in democrazia, può fare una manifestazione per tutto. Io parlo per me, ci saranno tante soggettività in piazza e parliamo della mia. Io penso che mandare via Berlusconi sia una precondizione per ricominciare a parlare di politica, di economia, di welfare, di cultura, di debito pubblico, di infrastrutture, di scuola, di tutto. Perché non ne posso più di parlare delle sue seratine per mesi e mesi e mesi, dei suoi scandali, dei suoi rapporti con ragazze molto giovani pagate per compiacerlo. Cioè, tutto questo dà un'immagine del nostro paese triste, meschina, arretrata, squallida. Vorrei che si ricominciasse a parlare d'altro. Penso che Berlusconi sia arrivato al capolinea. Sì, io credo che ci faccia troppo onore la signora Zanicchi dicendo che daremo la spallata finale. Magari fosse così, ma certo io personalmente penso che liberarsi di Berlusconi voglia dire ritornare a avere forse qualche possibilità di ritornare a essere un paese normale che si occupa dei problemi di un paese normale, perché Berlusconi è il capo del governo, allora non si può continuamente dire può fare quello che vuole. No, non può fare quello che vuole. Io posso fare quello che voglio, lui non può fare quello che vuole. In quanto lui ha una carica pubblica, lui rappresenta il nostro paese, lui deve occuparsi di fior di problemi, allora non può continuamente rimandare questa triste immagine dell'Italia e soprattutto e anche delle relazioni tra gli uomini anche, e le donne. Anche se poi vede, ma su questo vorrei anche la replica di Zanicchi, sull'intervista che oggi ha rilasciato al Foglio, Berlusconi dice è basito anche per l'immagine che lui dice questa inchiesta di una procura degna di la DDR, insomma della Germania Est, rimanda all'estero. Cioè è sempre questo rimpallare, come dire, colpa mia, colpa tua, colpa mia, colpa tua. Però onorevole Zanicchi, perché lei invece va da Ferrara, cioè tanto come contropposizione? Bravissimi per denigrarci, perché io sono in Europa, siamo i campioni, perché io sono lì da un anno e mezzo, io non ho mai sentito nessun parlamentare di altri paesi scagliarsi contro il proprio paese. Da noi, al di fuori di questi ultimi episodi molto tristi e squallidi, al di fuori di questo, spesso e volentieri c'è un parlamentare che si alza e colpisce, parla male di Berlusconi, del governo, per colpire il governo, ma per parlare male anche del proprio paese. Questo è molto squadra. Io dico una cosa che in questi giorni l'abbiamo sentita ripetere a noia. Allora, Berlusconi governa, Berlusconi perché è stato eletto, non è un dittatore che è arrivato lì e ha preso il potere, è stato eletto dagli italiani. Allora, si andranno alle elezioni. Il popolo italiano, che non è cretino, non è stupido, sa ragionare con la propria testa, che dicono che le televisioni hanno... non torniamo su questi vecchi discorsi perché sono ridicoli. Allora, voteranno, butteranno giù Berlusconi, andrà sulla sinistra e questo paese finalmente sarà governato alla grande, come in passato. Io non ci credo a questo, io credo ancora che nonostante queste leggerezze, queste cose, che è stato poi... Raga, io all'estero, uno, posso dire una parolaccia, uno sputtanamento così non si è mai visto. Perché? Va bene, avrà agito anche con leggerezza, perché delle belle ragazze andavano a cena da Berlusconi. Allora questa è l'occasione buona, hanno pensato a sinistra, visto che non riescono a vincere le elezioni in modo corretto, come normale che sia, allora buttiamo giù Berlusconi, questa è un'occasione buona, ve lo dico io. Cioè, come dai, dice Ferrara, dentro che forse ce la fate. Ha ragione secondo lei Ferrara a dire un golpe dei neopuritani, dei neobigotti, per questo. Finto. Questo bigottismo è finto, è falso. Allora prendono questa cosa, si figuri se io sono per le ragazze che possono vendere il proprio corpo, possono prendere delle scorciatoie. Ci arriviamo alle ragazze tra poco, devo dare le informazioni sul traffico, poi parliamo delle ragazze, perché lei ha fatto questa intervista anche a dire che insomma le fa anche un po' schifo questo atteggiamento, lo sta dicendo anche adesso qui, non è che giustifica quello che almeno si evince leggendo le intercettazioni, tra poco. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, rimane sempre più alta, il 65% della percentuale di chi dice mi sento più vicino alla piazza delle donne. Ma onorevole Zanicchi, lei questa frase che disse sulla carne fresca che piace a Berlusconi, forse lì fu una frase un po' infelice o no? Zanicchi? Onorevole Zanicchi, eccoci qua. Pronto? No, non ci sente, è caduta la linea. Vabbè, allora voglio tornare. Lidia Ravera, eccoci. Cioè, questa idea del voler dire, proporre un'immagine di donna, lei dice non vogliamo fare una contrapposizione tra le donne, quelle virtuose, e le donne viziose, diciamo, tra sante e puttane, insomma, quello che si è detto poi sui giornali. È sempre stata una contrapposizione dell'immaginario maschile, non del nostro. Però voglio dire, cioè questa idea di rappresentare la donna, la cui dignità è lesa, come astrazione collettiva, come ha detto Ostellino, un pochino emerge forse da questa idea. Ci sono molte donne che dicono, ma ci sono delle donne con nome e cognome, ognuna è responsabile delle proprie libere scelte, delle proprie decisioni, ognuna fa ciò che vuole e ognuna emergerà come crede e come vuole, voglio dire, e sarà responsabile delle proprie scelte, non di quelle di altre. Questo è vero anche per gli uomini, infatti io spero che ce ne saranno molti in piazza domenica con dei cartelli che si smarcano da un certo modo di intendere la relazione tra uomo e donna. Io voglio vedere tanti uomini con dei cartelli con scritto sopra: io non ho paura delle donne intelligenti, io mi prendo il rischio di una relazione fra pari, io so che cos'è l'affettività. È chiaro che siamo diversi gli uni dagli altri, nessuno vuole soffocare la soggettività. Quanto alla dignità delle donne, noi la dignità ce l'abbiamo, l'Italia è piena di donne, piena di dignità. Il problema è che non viene mai rappresentata. Allora vogliamo incominciare a farci vedere, a fare vedere la grande onda d'urto di quest'altra metà della popolazione. Ma come non viene mondiale rappresentata? Dove? Nella TV? In che cosa? Nei giornali? Nella società civile? In che senso non viene rappresentata? A cosa pensa quando dice viene rappresentata solo un'immagine, una certa tipologia di donna? Beh, diciamo che in questo periodo c'è un'ossessiva, una presentazione ossessiva, ripetitiva di quella immagine di relazione che è un'infima minoranza. Io vorrei tanto segnalare all'onorevole Zanicchi, spero che sia tornata. Sì, sì, è tornata con noi, l'abbiamo recuperata. Ah, meno male, che Berlusconi, smettiamo di dire che è stato votato da tutti gli italiani. Berlusconi è stato votato dal 25% degli italiani. Diciamo che in piazza ci sarà quell'altro 35%. E diciamo che in piazza ci saranno anche alcune persone, donne e uomini, che hanno votato Berlusconi e che si sono stancate, che si sono deluse e che non lo vogliono più, perché anche questo sta succedendo. La manifestazione di domenica sarà una manifestazione assolutamente trasversale, non ci saranno simboli di partiti, non è una manifestazione organizzata dalla sinistra, è una manifestazione ampia in cui ci saranno giovani, vecchie, donne, uomini, e ci saranno, ne sono assolutamente certa e ne sono anche molto lieta, sì, anche donne che hanno votato Berlusconi e che si sono stancate. Io tanto, onorevole Zanicchi, eccoci qua, per un attimo ho temuto che laddove non era arrivato Berlusconi a ordinarle di andare via era arrivato il traffico da noi. No, c'era tutta la linea, non sapevo come fare a richiamarmi. No, oppure ho pensato, dico, guarda, mi vogliono chiudere la bocca e mi hanno buttato sul telefono. No, se non c'è riuscito Berlusconi con lei, si figuri, se ce la posso, ce la posso riuscire. Sì. Senta, questa frase, facevo una piccola... mi dica però questa frase sulla carne fresca che piace al Presidente del Consiglio. No, guardi, anche quella, io non smentisco mai, e quello che, no, è l'evidenza, io ho detto carne fresca, però l'ho detto in un contesto diverso da come poi è stato, insomma, via, adesso come faccio a dire come si presenta la cosa? Due amici del... Sì, era un giorno da pecora, un diciamo. Un giorno da pecora, bravo. Però bravo. Questa idea che siccome allora, la trasmissione è un po' leggera... sono sempre molto dirette, molto crude, molto dure. Uno ti dice, allora, Iva, Berlusconi è un benefattore o un puttaniere? Allora io ho detto, guarda, per me... perché lo so, è stato anche un grande benefattore, lo è un benefattore, a cui piacciono le donne, per l'amore di Dio. E loro hanno cominciato a sghignazzare, giustamente, ah però qui vanno nella vita, ho detto sentite mo, un po' l'emiliana, anche voi siate sinceri, preferireste andare a cena o invitare a cena una bella ragazza giovane, insomma carne fresca, o una vecchia babbiona come me? Bene, il giorno dopo, l'europarlamentare Mazzanici, due punti. Vabbè, a Berlusconi piace la carne fresca. Vabbè, gli piace detto questo, però, lei non piace, e ha usato parole anche molto dure. In realtà, l'immagine che ne è uscita di queste, delle olgettine di queste ragazze, delle mamme che spingono queste ragazze a dire forza, fatevi avanti, dai, che c'è quella che vi sta passando avanti nelle preferenze. No, la cosa più scandalosa, secondo me, sono proprio abbiamo perso il senso, davvero, lo dico, ma col cuore, senza litigare o senza urlare, quello che colpisce tanto, almeno che mi colpisce, sono le mamme. Io ho letto le intercettazioni, queste mamme o i papà ti dicono ma allora sei andata, hai fatto, hai preso. Io credo che a Villa qui, come si chiama, San Martino, non è che le ragazze non ci siano state, ma conoscendo un po' Berlusconi, ma non lo voglio neanche giustificare, perché sarà anche una leggerezza, quest'uomo gli piacciono infinitamente le donne, ma chi è che può pensare che un uomo a 74 anni può andare a letto con 20 ragazzi di 20 anni a notte? È assurdo, è anche, ha avuto anche dei problemi. Io so che lui ama profondamente lo spettacolo, sarà leggero, va bene. Allora, io so anche che lui ha un teatrino dentro la villa di San Martino, e so anche che ama chiamare gli amici e organizzare queste feste che saranno anche discutibili, ma che non c'entra niente la prostituzione. Io non ci voglio credere, sono convinta di questo, ho tanti amici che frequentano, io non sono mai stata in casa, non sono mai stata invitata, magari ci sarei pure andata e allora potrei essere anche più chiara. Io credo che lui pagasse, sì, pagasse magari l'impresario, l'elemora, la presenza, la presenza, ma insomma lui è molto generoso, anche un po' leggero se vogliamo, dico cose che lui si dispiacerà ma chi se ne frega, e pagava magari queste ragazze perché fanno lo spettacolo, chi fa la danza del ventre, chi balla, chi canta, chi suona, picella, e basta, io sono convinta di questo. Poiché lui abbia amato anche far credere che è un grande amatore che andava a letto con 20 donne a sera, questo è assolutamente ridicolo e anche discutibile. Va bene, qua io mi devo fermare, voglio ringraziare Lidia Ravera, scrittrice, giornalista dell'Unità, Iva Zanicchi, una parlamentare del Popolo della Libertà. Insomma, buona piazza a tutti, andate dove volete, ci sono molti che ci hanno scritto, io andrò, spero che tutti vadano in piazza così in bianco la casa tranquillamente, io vado a sciare eccetera, ognuno, è bello è questo, ognuno vada nella piazza che vuole liberamente, si manifesti pacificamente. Intanto il 65% dice appunto ci sentiamo più vicini alla piazza delle donne. Mi fermo con Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione e Filippo Aureggi oggi in regia, l'Alpino ha detto c'è sempre qui, è venuta la febbre. E va bene, ci sentiamo lunedì mattina alle 7:20.